Ciao. La storia degli Ocean Drive è una storia abbastanza recente, ma musicalmente siete partiti con ben altra cosa. Io ho letto nelle cronache che nella vostra biografia e nella vostra biografia ho letto che la musica era un po' diversa. Sì. Che musica era all'inizio dello sviluppo, all'inizio dell'idea vostra? Beh, diciamo che il tutto è partito circa 10 anni fa. Sì, scusate. Qualche problema tecnico. No, ma abbiamo già sistemato. Perfetto. Okay, il tutto è partito circa 10 anni fa con io e Dario, che suonavamo negli H-Strike 9, che era una band di hard punk. Com'era la definizione che hanno dato? Beh, post hardcore, diciamo, quindi dai. Abbastanza duretta. Sì, dai. Era abbastanza duretta. Poi nel tempo abbiamo iniziato a perdere qualche componente, e nella fattispecie il cantante, poi seguito dal batterista e di qua e di là. Siamo rimasti io, Dario e mezzo della formazione, sì, che nel frattempo era subentrato. Sì, le telecamere inquadrano tutti quanti. Stiamo salutando con vivacità. Esatto. Nel senso che non è che siano defunti, cioè abbiamo perso. Sì, sì, per strada hanno cambiato strada, sistema. Esatto, sì, musicalmente avevo un'altra idea. Per divergenze musicali. Certo, è sempre, si parla sempre di questo. Anche amici, perché, sempre, musicalmente può capitare. Anche perché comunque poi il materiale che stavamo scrivendo andava nella direzione di Ocean Drive. Cioè, sì, stava diventando sempre più melodico per quanto riguarda i cantati. Il cantante era un urlatore e faceva un po' fatica a stare non era, anche perché comunque non era il suo genere, non gli piaceva molto. Quindi poi è venuto quasi spontaneo che lui abbandonasse. Abbiamo avuto un periodo di stallo chiamandoci sempre H-Strike 9. Per riunire le idee, probabilmente, esatto. Anche quello. Nel frattempo abbiamo scritto il disco, l'abbiamo registrato e poi niente, era pronto un paio di anni fa, però abbiamo avuto problemi di line-up finché non ci siamo imbattuti in Mimmo e Toma, che sono i due nuovi ingressi. Batterista e batterista chitarrista. E il bassista. Chitarra oggi acustica, per l'occasione, per l'occasione speciale, certo. Chitarrista. E quindi è uscito. Poi le cose, quando ci siamo messi a posto come line-up, le cose sono arrivate tutte. È uscito il disco, abbiamo girato il video è in rotazione, l'abbiamo visto prima di venire qua in televisione. Sì, dopo lo citeremo. Esatto. Una cosa volevo chiederti, io ho letto chiaramente nella vostra biografia, nelle vostre note, che c'è un connubio tra melodia e aggressività. È una cosa interessante. Come si può definire questo connubio praticamente? Nel nostro caso spontaneità, perché sì, comunque ripeto, sia io che Dario, che siamo più o meno quelli che cantano e anche mezzo, veniamo dagli anni 90, quindi dal grunge, dalla musica comunque che andava in quegli anni lì andava per la maggiore, band come Nirvana, come certo. Alice in Chains, come che si sono ricostituiti, lo sai, no? Disco nuovo, sì, è sì, uguale sì, al disco vecchio, non ha il cantante mitico purtroppo, però ricorda, se n'è andato, non è male, io l'ho però ascoltato, è abbastanza, cioè i fan sono stati contenti, francamente. Sì. Chiaramente non erano gli Alice in Chains di una volta, però non è male. Cambiato, ma è cambiato poco. Non è male. E quindi ti dicevo, essendo noi dei grangiomani, se si può dire così, sì, è venuto più o meno spontaneo. Poi è logico che cerchiamo di metterci del nostro, perché quindi anche gli intrecci vocali cerchiamo di fare armonizzazioni non elementari, cerchiamo di farle un po' più elaborate. E questo però non vogliamo che perda assolutamente l'impatto delle chitarre, perché comunque tutti noi veniamo da un certo genere. Certo, certo. Anche gli altri due ragazzi suonavano in band che erano prettamente metal. Sì, tipo, decisamente metal. Esatto, sì. Trash metal, possiamo esatto, dire questo. Però c'è stata una evoluzione verso una determinata, tra parentesi, chiaramente linea melodica. Esatto, esatto. Apriamo sta finestra allora. La finestra, chiaramente, come apriamola. Se in gergo, aprire la finestra vuol dire sentire il primo pezzo dell'album. Andiamo. L'album come si intitola in ogni caso? L'album si intitola Why Everybody Sucks. È stato inciso per un'etichetta indie, praticamente. È uscito per nel mese di settembre per la Bagana Records. Quindi abbastanza recentemente. Certo. Eseguita Radio Globe, quindi si trova facilmente in qualsiasi negozio, certo, di dischi. Sì. Il primo pezzo come si intitola? Si intitola Logical Drugs. Perfetto, lo sentiamo e poi lo svisceriamo, lo allarghiamo, ok? Molto bene. Blu Radio Veneto Rock. You cannot trust on my faith. Change your life. Is that crash? Is my gift for? over. There's a moment you can fight, and a moment to define. Can you feel the logic sound? Can you see me on the ground? There's a moment you can fight, and a moment to define. Can you feel the logic sound? Can you see me on the ground? Your eyes don't. Del rock. Ok, abbiamo sentito il brano d'inizio, d'apertura, abbiamo aperto la finestra, giustamente mentre il pezzo andava parlavamo con i ragazzi, sì, c'è l'aggressività, la più aggressività, io parlo di potenza, che mi sta meglio come termine, e c'è la melodia, questo cantare in forma abbastanza melodiosa, questo sistema, questo input, come ti è venuto fuori l'idea? Come ti dicevo prima, sì, più o meno, la allarghiamo un pochettino questa idea. Più o meno in maniera naturale, perché anche per forza di cose, dopo due dischi con gli H Strike 9. Quindi abbiamo già inciso due pezzi, due dischi. Non solo, avevamo fatto un tour europeo, sì. Avevamo fatto varie cose, cioè le cose funzionavano. Bene. Per forza di cose, dopo un po' di tempo, diciamo che la formula hardcore, quindi urlato, cattiveria a tutti i costi, costruzioni cervellotiche, erano un po' stancato. Sì, diciamo che stancato è una parola grossa, però di pari passo anche con i problemi con il cantante, proprio di divergenze musicali, questa cosa qua è diventata sempre più pressante. E io ripeto, ho 35 anni, quindi negli anni 90 ero un ragazzino. Ascoltando il grunge e tutta la musica alternativa americana, diciamo che le mie influenze si sono formate lì. Poi con Dario abbiamo studiato un modo di cantare, e anche con Mezzo, che non fosse proprio alla Nirvana o alla Pearl Jam, che cercasse di essere il più personale lo possibile. Sei Eddie Vedder, esatto. Poi... Purtroppo. No. Purtroppo ma no. Eddie Vedder non canta in modo violento, secondo me. No, canta no, in modo melodioso. No, però vabbè, il timbro di Eddie, sì, Vedder, non stiamo qua a dire. È chiaramente cosa. È il timbro di Eddie Vedder e di Eddie Vedder, esatto, e basta, esatto. Non c'è niente da fare. Abbiamo cercato di armonizzare, infatti se tu poi sentirai anche gli altri, le altre sì. canzoni, insomma, del disco, anche gli ascoltatori ascolteranno, ci sono molte armonizzazioni. Certo, abbiamo certo. cercato di puntare su un tipo di musicalità americana, quindi le chitarre spanate, la batteria pompatissima. Che stasera si è un po' ridotto Dario. Sì, Mimmo. Scusa, non Mimmo, ha sbagliato, scusa. Mimmo si è un po' ridotto, giustamente, però ha portato le sue cose. Però si ha fatto velocissimamente, ha montato le sue cose. Vuoi far sentire vuol la far sua sentire grinta. Che comunque quindi, sì. ritornando al discorso, a me interessa sapere una cosa. Com'è stato creato il pezzo, l'idea, dove è partita praticamente? È partita dalla voglia di cambiare. Mm. Questo disco qua è nato nel momento in cui non c'eravamo come formazione, cioè il batterista se n'era andato, il cantante se n'era andato, abbiamo organizzato io e Dario tutto, abbiamo suonato, abbiamo messo a posto i pezzi, abbiamo chiesto al batterista vecchio di suonarceli. Di darci una mano un secondo. Di darci una mano perché noi non eravamo in grado. Chiaro. E poi a casa con la chitarrina acustica abbiamo iniziato a mettere giù queste cose melodiche, abbiamo visto che davano potevano bene. Funzionare. Sì, avevano una funzione. Sì, vuoi dire, vuoi intervenire anche te? Niente, volevo dire che tutto quello che dice Lucien è giusto e niente, praticamente durante questo periodo appunto di stand-by abbiamo avete ricostruito il discorso. Ricostruito il discorso fino a che finalmente un barlume di luce ce l'ha dato. Un barlume di luce è dovuto all'ingresso di due nuovi partecipanti. E certo, in quanto ci trovavamo praticamente su un'isola disperata, e tutte le sere ci telefonavamo dicendoci ma cosa facciamo? Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo indietro, metti la prima, la seconda, la terza. E abbiamo messo la quinta. Il batterista Mimmo e Tomo il bassista. Ecco, una cosa interessante, il batterista in tutte le band di un certo livello, ma in tutte le band il batterista è fondamentale. Esatto. Che suono dà Mimmo? Certo. Che suono dà Mimmo per portare avanti l'aggressività e la melodia? Ma allora, come tutti i bravi batteristi, innanzitutto ci ha assicurato l'esecuzione, esattamente, che dal vivo è fondamentale, anche perché noi calcola che avendo molte basi elettroniche certo. andiamo a metronomo. Stasera chiaramente non possiamo fare, però ti dico, ma non solo, e questo tiro dentro anche il Toma, il bassista, oltre alla bravura tecnica, perché comunque sono bravi a suonare, quello che ci è piaciuto è noi avevamo già suonato in giro a certi livelli, tra virgolette, cioè niente di enorme, però invece i ragazzi diciamo che suonavano in band locali, avevano suonato anche loro, però diciamo che non avevano ancora avuto esperienze abbastanza grosse, quindi hanno portato una ventata di entusiasmo e di voglia di spaccare il mondo che noi avevamo all'inizio e che ce l'hanno rimessa nelle vene, che è stata secondo me la cosa principale. Ho capito. Quindi al di là poi la bravura, è chiaro che comunque Mimmo suonava metal, quindi è un batterista preciso, potente. Il Toma si è dovuto reinventare perché comunque era un chitarrista. Ma suonava metal? Non suonava metal? Sì, suonavano insieme loro. Quindi metal è il vostro punto di comune, di collegamento, insomma. Sì, lui suonava la chitarra nella band con Mimmo. Ho capito. Io li conoscevo perché abitiamo vicino. Ci abbiamo messo un bel po', perché io gli avevo già chiesto da un po' di tempo di suonare assieme, però loro avevano vari impegni di qua e di là, poi alla fine vedi che c'è stata la coesione, si sono sistemate, certo. Adesso abbiamo già iniziato a fare date in giro, la risposta è stata molto molto buona. Decisamente. Quindi ti dico, poi l'entusiasmo è quello che è quello secondo che me conta, è importante, è fondamentale, diciamo, cioè. Che abbiamo toccato il lato umano e il lato musicale. Ok, allora andiamo a riaprire un'altra finestra, la traccia numero 2. Ti ricordi sicuramente il titolo, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo e me la ricordo particolarmente perché è la mia preferita. Ah, perfetto. Quindi la voglio dedicare a tutte le ascoltatrici che sono in ascolto. Bene. La canzone è Sparrow. Ok. Blu Radio Veneto Rock. We'll be right back. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, salutiamo anche il gruppo d'ascolto, sai, Michele, abbiamo anche un gruppo d'ascolto, Nicoletta e Silvia che ci stanno sentendo. Vabbè. Ciao Nicoletta! Ecco. Ciao Silvia! Ok, allora cominciamo a parlare del secondo pezzo, che sì, il secondo pezzo dell'album. Come è stato costruito musicalmente? Come l'hai creato? Hai creato chitarra e voce oppure qualcosa questo d'altro? Questo qua è diverso questo, perché è nato da un sampler, da un giro... Sì, ecco, chiariamo per non addetti che cos'è il sampler. In pratica è un giro elettronico, cioè un giro creato con l'elettronica, e qua devo tirare in mezzo proprio. Che è qui presente, che non c'ha la tastiera, però fa parte della band. Perché è nato da lui, diciamo. Ecco, dimmi qualcosa su questo discorso musicale, come che hai creato. Ma adesso ti avvicini, un momento, sì. vai, ok, vai. Diciamo che quando ti metti nella tua stanzettina a suonare, non sai mai cosa nasce sul subito. Mm. E qui eravamo nel garage di Luciano, pian piano... Come una volta, il garage per fare nello musica, squallido garage nello squallido, beh, squallido. Una volta si usavano i garage per fare musica. Cantine. Le cantine, bello così, bellissimo. Dimmi, dai. Niente, è nato così a sovrapporre vari synth, virtual synth che uso. Dopodiché si è registrato tutto grezzamente su un mini disc di Dario. E dopo che si è raffinato con le chitarre e la melodia. Con la parte vocale alla fine. Con la parte vocale alla fine. C'è da dire che casa. Comunque aveva anche capito che era un pezzo sì. che avrebbe funzionato. Quindi a mio parere. Da un accordo di tastiera si è sviluppato un po' di tutto. Esatto, in pratica è andata così. E gli altri cosa hanno detto? No? Del pezzo, sì. Beh, diciamo che... In primis il batterista, visto che è il più giovane, mi pare, della band. È il più giovane della band, il batterista. Mimmo, sì. Ecco, è il più giovane, ok. Mimmo, sì. Cosa hai detto del pezzo? Cosa hai detto del pezzo? Cosa hai detto del pezzo? Aspetta che vi faccio arrivare il microfono. Vai. Venendo da, come abbiamo già detto prima, dal trash metal. Esatto, dal trash. Ad inserirmi ho fatto un po' di fatica. Esatto, un po' fatica, perché qua è tutto più suonato in maniera blanda. Sì, rispetto a quello prima. Però poi. Ma ci sono i tempi disperi anche qua? Sì. Cioè, li metto perché li metti, mi piace metterli. Ok. Però poi... Poi è riuscito, insomma. Esatto. Il discorso è partito e poi ci sei inserito benissimo. Insomma. Esatto. Non c'è stata difficoltà. Hai preso subito mano. Ho preso subito mano e... Lì mi ha proprio, diciamo, come... Ti hai coinvolto. Esatto. Mi appassionava proprio ancora di più suonare la batteria con i pezzi che avevo appena ascoltato. Ho capito. Ma una cosa volevo anche chiedervi, dunque siamo partiti dalle tastiere, poi in sala di registrazione, in sala di studio, come avete combinato, avete incastrato tutti questi elementi? Mi riprendo il microfono. Sì, ma è sempre live, sortiamo anche i microfoni in live, mi pare giusto. Ok. Vabbè, okay. Sì, non dovevo spostare i microfoni in live. Ok, il bello della diretta. Niente, mi dicevi della sala di registrazione. Sì, esattamente. Ah. Dove avete registrato il disco? Abbiamo registrato allo studio 73 di Ravenna. Quindi abbiamo registrato con Riccardo Pasini, detto il Paso, che ha lavorato. Tengo presente subito a salutare. Esatto, ecco, se salutiamo anche se è difficile. Ci ascolta via internet volentieri. Ciao Super Faso. Niente, è stato molto importante perché comunque ti ripeto, come dicevo prima, la band era proprio sciolta quando abbiamo registrato il disco, quindi avere una persona da fuori che ci dicesse quali erano le cose che andavano tenute e quali erano le cose che non funzionavano è stato veramente importante. Quindi Paso non si è limitato a produrre, cioè è stato proprio quasi un membro della band. Papà. Esatto, e quindi ci ha dato una mano, e alla fine credo che comunque sia come produzione che come songwriting sia un disco non eccezionale, però io credo che sia molto buono, specialmente calcolando che non c'era una vera band alle spalle. È un disco d'esordio. Esatto, poi è un disco d'esordio. Quindi... Non è mica facile fare un disco per una band emergente, molto difficile, molto complicato. Difatti. Al di là della tua esperienza precedente, lasciamo perdere, certo. È molto complicato. Poi ho notato anche un'altra cosa, se posso... Madonna, sicuramente, se posso disquisire. Disquisiamo. Ho notato che molte band arrivano ad avere un disco, perché sì, comunque con i computer, con il Pro Tools, moltissime band, adesso si è molto pianeggiato. Ma è bello avere un disco con computer. secondo te? Ti dico, noi vediamo che ci sono tantissime band che magari hanno un disco che spacca, sì. I suoni aprono, però poi dal vivo ti rendi conto che è una band che veramente ha fatto due date sotto casa, e quindi è lì che c'è la mazzata. Cade il palco, cade tutto. Là. Esatto, è importante secondo me comunque, vabbè questo magari può essere un discorso un po' fuori tema, però è importante comunque avere una certa esperienza prima di mettersi a registrare un disco. A noi è andata bene perché comunque vabbè, noi venivamo da esperienze precedenti e così, abbiamo trovato le etichetta e quindi guarda, siamo veramente molto contenti. Anche se avete contribuito voi dal punto di vista economico. Cosa? Avete contribuito voi dal punto di vista... L'abbiamo spesato completamente, a parte la stampa, che quello ci ha pensato la Bagana Records, e poi anche, vabbè, l'ufficio stampa. L'ufficio stanca. Stampa di un'etichetta alternativa. Vi dà una mano oppure no? Accidenti. Devo veramente devo dire che la Lunatic devi spezzare buone parole per la sì, Bagana. Non solo per la Bagana ma anche per la Lunatic, che sì, è l'agenzia che stampa l'agenzia, a loro sì, collegata sì, che certo, ci sta veramente facendo conoscere, nel senso che moltissime recensioni, sì, moltissime, ho visto, sì, esatto, moltissime interviste in radio, certo, questa è una cui, delle tante questa, grazie a Lunatic che mi ha proposto e la quindi, vostra band e io l'ho accettato, esatto, ben esatto, volentieri. No, quindi siamo, ti dico, si sta muovendo tutto bene. Noi l'unica cosa che speriamo è che il pubblico si accorga di noi, anche perché noi ci stiamo impegnando tantissimo per buttare giù più date possibili, per farci conoscere, e speriamo che il video giri e che le radio ci diano una mano, e quindi insomma dai, speriamo che vada tutto bene, insomma comunque noi siamo molto contenti del lavoro perché che stiamo svolgendo. Live è la cosa fondamentale per tutte le per, no, per in, noi in, sì, nel vostro caso ancora di più, visto che avevate già dietro un background live a tutti i costi. Certo, no, come ti dicevo prima, magari delle band che hanno un disco che spacca, poi dal vivo ti accorgi che hanno fatto 3 date e mezza. Noi veniamo da parecchi anni di palco e parecchi anni in cui eravamo senza palco, perché era più o meno dal 2006 che eravamo fermi, quindi adesso stiamo riniziando e ti dico, è un feeling unico quello, certo, che una cosa, visto che abbiamo citato i palchi dal punto di vista anche lato, dopo riciteremo un'altra volta le date, poi citare adesso le date che ti vengono in mente e poi verso la fine di trasmissione li prenderemo. Sì, abbiamo la prima data in ordine di tempo credo sia il 21 di novembre. Sì, quindi fra un mesetto. Fra un mesetto che vedrà noi impegnati al Circolone di Milano, okay, di Legnano, in provincia di Milano. E lì sarà una serata importante perché ci saranno altri gruppi della Bagana Records che suoneranno con noi, quindi una specie di mini festival, certo, della Bagana Records. E poi il 19 di dicembre suoniamo a Legnago, a stavolta, sì, in provincia di Verona. Suoniamo allo skate park e ci sono dei nostri amici che stanno organizzando un contest di snowboard e noi suoneremo in quell'occasione. Perfetto, allora adesso siamo pronti per cominciare ad aprire la finestra live, cioè suonando, okay, chiaramente. Cosa avete intenzione di suonare fra qualche secondo? Andiamo a suonare il primo singolo del nostro disco, che poi potranno ascoltare gli ascoltatori in versione, sì, in versione elettrica ed elettronica. Certo. Si chiama, il pezzo si intitola Codine Champagne. Perfetto. Blu Radio Veneto Rock. 1, 2, 3, 4. reason of my endless sick. You can find out of my bed, burning on my fucking skin. All my guilty take me back. 12, 11, 7, 8 is my cut for you disease. Closer to my fucking face. Now I'm gonna get so self-rage. I don't need to know for me. Self-rage. I don't need to know for me. Self-rage. I don't need to know for me. Self-rage. I don't need to know for. No road built by my own force, now sorrow passing by my skin for nothing. My brain escaped when asking. I'm gonna fly, can't you see? I need to know you wanna head for me. Don't open your life. I'm fly, can't you see? Don't need to know that me. Don't for me. Don't for me. Done for me. Thanks. Rockwave, l'onda del rock. Ok, benissimo, ci siamo stati, abbiamo sentito il primo pezzo acustico. Eccoci qua, dal pezzo pseudo elettronico o pseudo rock, poi un pezzo totalmente acustico, bellissima, una ballata quasi molto a stelle strisce, posso dire questo, mi permetti di dire un po' a stelle strisce? Ma certo, anche perché... Ma non in senso negativo, in senso positivo. No, certo, anche perché comunque, come ti dicevo prima, le nostre chitarre, le nostre batterie, anche sul disco sono USA. Ecco, adesso ho capito qual è la melodia, ho capito proprio, si intende proprio, si sente proprio l'animo melodico, il cantare pelle e ossa melodico, proprio, esatto, scarnificato rimane... tra chitarre acustiche e la batteria di Mimmo, che non è violenta, è di accompagnamento, esatto. Si trattiene, ti stai trattenendo sta musicalmente facendo fatica parlando. Questa volta è una bella cosa, secondo me è molto difficile, ma però, ma ce la fa, ce la fai, l'hai fatta, ti sei trattenuto e avete sviluppato una evoluzione acustica. Dal vivo è possibile fare una cosa di quel genere? Dal vivo io parlo in dimensione con il pubblico, guarda, siamo anche noi un po' di pubblico. Sì, no, per due o tre persone, calorosissimo tra l'altro, visto gli accendini, è stato, certo, molto bello, certo, in regia. No, comunque, a parte questo, abbiamo un pezzo che purtroppo stasera non riusciremo ad esibire, perché cioè, dobbiamo non siamo dire una riusciti... cosa, il cantante purtroppo Lucien è un po', cioè un po', sono un po' malato, sei un po' malato, allora ha fatto uno sforzo, facciamo tutti i pezzi previsti, ma ne facciamo, esatto, un po' di meno, abbiamo dovuto però... dimezzare la scaletta, sì, abbiamo dovuto dimezzare, però siamo sempre live, assolutamente, assolutamente. E, dal vivo abbiamo un momento, diciamo, che è acustico ed è la traccia numero 11, che sul disco è completamente elettronica. E invece dal vivo abbiamo deciso di farla proprio chitarra, voce e batteria soffusa, quindi chi ci verrà a vedere, poi logicamente noi speriamo di aggiungere date anche qui in zona, e comunque invito tutti gli ascoltatori ad andare sul nostro MySpace, che è www.myspace.com/OceanDrive, scritto Ocean Drive 2009. Lì troveranno, a parte i brani in ascolto, il nuovo video, troveranno anche la sezione live dove ci sono tutte le nostre date. Stiamo chiudendo diverse date. Faccio anche un appello, chi ha un qualche locale o conosce qualcuno che ha un locale ci può contattare, noi siamo tranquillissimi e disponibilissimi a suonare un po' ovunque. Benissimo, ecco, adesso che hai tirato fuori questo argomento, un argomento che spesso noi di cui ne parliamo con quasi tutte le band, quanta difficoltà c'è a suonare pezzi che non siano le solite cover di Vasco e di Liga, anche U2 in questi ultimi momenti? che difficoltà ci sono? Hai toccato una... un tasto dolente perché... Però dobbiamo toccarlo questo tasto, no, c'è l'idea a fare. Cioè, una band come la nostra fa abbastanza fatica, cioè, poi al di là dei meriti, della bravura, però non trovo giusto che una cover band o una band tributo percepisca dei cachet che noi ci sogniamo per sfruttando la bravura altrui. Io non è una polemica. Però è diciamo un invito agli addetti ai lavori a un attimino a ragionare un attimino se in Italia la musica va così male, anche perché le band che fanno musica originale fanno un po' fatica a suonare. Sì, fanno fatica perché più che altro, siamo tutti quanti non la facciamo di professione, facciamo per l'amore della musica, certo. Quindi è faticoso, però è faticoso. Ti dico, ci sono locali che comunque credono, o comunque locali che programmano sia le cover band che anche le band emergenti, o comunque le band che fanno musica originale. Sì, ma per mangiare un panino dà fastidio una band emergente, hai capito? Ma sicuramente, però noi suoniamo alle 11:30, quindi il panino poi l'hai già anche bello, sì, digerito, è ora di Coca Rum magari. Ecco, esattamente. Piuttosto, no, quindi insomma dai, adesso a parte gli scherzi, noi ci impegniamo al massimo a suonare, però bisogna che la situazione cambi un pochettino e noi speriamo che cambi, insomma, ci mettiamo del nostro, sputando sangue sul palco ogni volta. Certo, sputando sangue sul palco, dal vivo, come li allargate questi pezzi? Cosa ci mettete oltre la grinta di Mimmo, chiaramente, che oggi è un po' ridotta per via dello spazio? Ma ci mettiamo un po' tutti noi, anche il Toma ci mette del suo, perché comunque anche lui ha modo di suonare che è molto aggressivo. Difatti l'ultima volta ha fatto saltare via la testata, no? Com'è andata, Toma? Cosa hai fatto? Praticamente mi sono trovato nel bel mezzo di un pezzo che insomma non funzionava più, nulla. Fumava. Ha fatto saltare in aria la testata. Si è sgretolata. E niente, mi è toccato andare in prestito da un altro ragazzo che cose che suonava capitano. Il basso, eh? Cose che capitano. Il gruppo che ha suonato con noi ci ha prestato, tra l'altro, molto prestato gentile, il basso. Sì. No, comunque dal vivo. Come si fa a suonare, a fare schizzare evaporate la testata? È un segreto quello. Un segreto. Posso rivelare. Perfetto. Solo io. Quindi è una... In alcuni momenti c'è molta forza, molta propulsione. Ma dimmi. Più o meno sempre dal vivo, perché viene spontaneo, credo, di suonare la nostra musica. Cerchiamo di farla al massimo delle nostre potenzialità, quindi spingendo sulle voci, spingendo sulle chitarre, spingendo sulla batteria. E quindi è così. Diciamo che per noi il live è uno scambio di energia con il pubblico, quindi anche noi facciamo un concerto micidiale. Certo. Se il pubblico è poco attento oppure ce n'è poco, anche noi tendiamo a spegnerci, quindi è un po' uno scambio di energia. Poco pubblico e poi si allarga, sì, certo, il pubblico. Certo. No, ma noi siamo già abbastanza contenti, perché per le date che abbiamo fatto abbiamo avuto un buon riscontro. Allora, quindi è molto positivo. Siamo contenti. Passiamo alla quarta traccia. Adesso il disco, il titolo te lo ricordi? Sì, il titolo è in realtà quella che abbiamo appena fatto, chitarra e voce, si intitola Codine e Champagne. Perfetto, adesso la sentiamo nella dimensione dall'album praticamente. Esatto. Blu Radio Veneto Rock. We'll be right back. Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Michele Tosoni in regia, Maurizio Calzavara a microfono, le telecamere guidate da Roberto Baldi, diretta a rockway.altervista.org per poter vedere e sentire Rockway praticamente. Abbiamo sentito questo pezzo nella versione da disco. Mm-hmm. Tutta un'altra cosa, chiaramente. Beh, insomma, fermo restando che la melodia è quella lì. Sì, la melodia è quella, sì. Cioè, d'accordo. Il cantato è quello lì, però per forza di cose abbiamo dovuto mettere il freno a Mimmo, abbiamo preso la chitarra. Mimmo si è comportato bene, certo. Ha frenato bene, certo, non è andato certo. A sbattere in nessuna parte. Come ti dicevo, sì, dai, sono due versioni diverse, però comunque credo che ci sia un... Sì, è stato positivo, decisamente. A me è piaciuta particolarmente, ripeto, come avevamo detto prima, quando la live era finito, aveva questa dimensione americana, ma una dimensione americana a vostro piacimento, cioè questo è positivo. Sì, sì, no, non... diciamo che l'abbiamo costruita in un paio di settimane, siamo contenti, e forse diciamo che da oggi inizieremo a farla anche unplugged in qualche concerto, non si sa. Secondo me è una cosa buona. Dai, vedremo. Visto prima di approdare al solito nostro giochetto, sentiamo un pezzo dei vostri preferiti. Abbiamo scelto i Linkin Park, gruppo plurimiliardario, milionario, perdono, non miliardario, miliardario forse una volta con i casi di loro dischi. Vabbè, sì. Plurimilionario, plurimilionario. Americano. C'è. Come mai? Diciamo che i Linkin Park sono una bravissima band. Sì. Poi che siano ipercommerciali. Qualcuno ha detto che sono ipercommerciali, sono ipervenduti, certo. Almeno gli ultimi dischi. Poi vabbè, insomma, diciamo che poi bisogna anche vedere un attimino, bisogna vedere, certo. dal vivo li ho visti, sono bravi. Sono bravi. Il cantante ha una gran voce, riesce a fare delle gran cose, quindi siamo andati a prendere il primo disco che avevano fatto e secondo me sono un esempio della musica, come ti dicevo, violenta ma melodica. Quindi l'abbiamo voluto prendere come una cosa enciclopedica. Certo, non certo. È esattamente il nostro gruppo preferito, però può far capire da dove prendiamo anche spunto. Tipo, ecco, questo è quanto. Benissimo, adesso sentiamo i Linkin Park. Allora. Sentiamo i Linkin Park. Blu Radio Veneto Rock. We'll be right back. make of the mistake, slow to react. I know you're so close to me, still so distant, and I can't bring you back. It's true. The day stands still. Fine line between this and that. When things go wrong, I pretend that the past isn't real. I'm trapped in this memory, and I'm left in the wake of the mistakes. Slow to react, even though you're close to me, you're still so distant, and I can't bring you back. It's true. Sono le 23 e 0 minuti. Rockwave, l'onda del rock. Ok, come avevamo detto, 23 e qualche secondo e cominciamo col giochino. Col giochino, yeah. I 5 dischi, è un gioco molto semplice ma secondo me interessante, per i 5 dischi da portare su un'isola deserta. Un altro si diceva i 5 dischi, adesso i dischi non esistono più, anzi c'è un ritorno al vinile, però i 5 dischi da portare su un'isola deserta. Chi comincia? Beh, io direi... Una regola fondamentale di questa trasmissione, avvicinati al microfono visto che tu sei te per cominciare, che non si può copiare. Non si può. Quindi copiare. Se uno dice il disco allora, non, è valido. Non è valido. Allora comincio io. Quindi sei fortunato. Allora. Campo libero. Campo libero. Allora, in primis io direi, molto scontato forse, però Slipknot, degli Slipknot. Beh. Okay. Un bel CD che ha cambiato proprio. Che ha cambiato musicalmente sì, mi certe ha rivoluzionato cose. Proprio l'esistenza bene. Musicale. E poi proseguendo con Primitive dei Soulfly, che dai ritmi molto tribali e molto molto, molto appetitosi per te, musicalmente. Sì, molto bello. Direi di cambiare genere con i Distillers, che con Coral Flang. E poi diciamo beh sempre sul pesantino però Beh sul pesantino beh dai beh, diciamo insomma, bel punk piuttosto. Ma quelli un po' pesanti ma insomma, dai. Beh sì insomma poi i NoFX immancabili ecco quelli quelli leggerini, leggerini. Sì, appunto e poi e per finire il dessert cosa metti di dessert ma una raccolta di Lucio Battisti. Adesso ci fermiamo un momento. Dopo sì. i quattro musicisti che hai citato precedentemente, che sono determinati generi decisamente potenti, perché Lucio? Perché ci vuole un attimo di riflessione, secondo me, ogni tanto. Ma no? Lucio primo periodo o Lucio il secondo periodo, quello è elettronico, o presunto tale? No, quello fino con Mogol. Il primo Lucio, diciamo. Con Mogol, insomma, praticamente. Sì. I primi classici. Stupendo. Bene. Dai. Dalla canzone del sole in su e dalla canzone del sole in giù. Perfetto. Perfetto. Strimpellate. Yeah. E adesso facciamo una cosa di questo genere. Chi tocca? Mimmo. Mimmo. Senso... Sì, adesso avviciniamo il microfono. Vediamo se ce la fai. No, Gigi. Ecco, ok. Vai Mimmo, tocca a te adesso. Sono di poche parole. No. Fiorella Mannoia. No, beh, sto scherzando. No, perché? È brava Fiorella Mannoia. Sono ignorante in materia. Cioè, no, non la conosci. Vabbè. Non è il mio. Comunque... al contrario di ciò che ha detto del nostro bassista Toma, esatto, sì. Riferendomi agli Slipknot, io preferisco Iowa, sempre di quel gruppo, esatto. Là, quindi il secondo album appunto degli Slipknot, poi Prophecy dei Soulfly, un altro dischetto da esatto. poco, musicalmente proprio leggero LD50 dei Mudvayne, per me è uno dei migliori. Beh, sì, può andare. Mi piace. Sì. Per calmarmi un attimino, un po' le acque. Genere, The Reason degli Ubastank. E adesso andiamo in un genere totalmente diverso. Non... Esatto. Come mai questo cambiamento, questo passaggio? Allora, dal musica decisamente potente alla musica meno potente. Come abbiamo già detto prima, quando suonavo solo ed esclusivamente metal. Ma c'erano dei momenti di rilassatezza, ti rilassavi? No, mai. No. Macchina, via, sempre duro, musicalmente parlando. Via. All'orecchio, sempre, sempre, sempre quel, metal. Sempre metal, sempre metal. Proprio mi spappolavo il cervello proprio. Ma non ti stancavi? Esatto, ascoltando solo roba. Non ti stancavi a sentire il metal? Esatto, poi quando ho cominciato a suonare un po' diverso con questi miei fratelli, detto proprio così perché li voglio un bene dell'anima, questi ragazzi oceanici, appunto si chiamano Ocean Drive, mi sono proprio calmato con il genere, oltre che a suonarlo, ascoltandolo anche. Perfetto, quindi io basta anche praticamente. Esatto. Michele adesso fa sentire. Esattamente. E come ultimo album gli immancabili Linkin Park che abbiamo ascoltato. Ma quelli prima, del primo album? Ami quelli là, i Linkin Park. Soprattutto l'ultimo pezzo che hanno scritto. Non mi ricordo il titolo, ma mi piace. Quindi Linkin Park sono i tuoi preferiti. Esattamente. Benissimo. Okay, sono i miei cinque. I tuoi cinque dischi da portare su un'isola deserta. Chiaramente. Batterista Mimmo ha deciso così. Lucien, cosa decidi allora? Si delibera. Mi riprendo il microfono. Ok. Io bagaglio. Ok, allora. Io direi, innanzitutto nella mia valigia di naufrago non può mancare Nevermind dei Nirvana. Ecco, ci fermiamo un secondo. Come mai questo epocale disco che ha aperto tante, tante porte? Beh, si vede, cioè, rispetto ai ragazzi che hanno appena parlato, che hanno 15 anni, 12 anni meno di me. Quindi sono un po' giovanili tutti i sensi. Esatto, diciamo che i Nirvana io li ho ascoltati quando avevo la loro età, quindi 15 anni fa, 17 anni fa. E non, nessuno dei ragazzi credo che abbia la mia età può dire di non essere stato influenzato tutti, a qualsiasi livello da Nirvana, tutti. Perché erano nell'aria. Anche la copertina li bevevi nell'acqua, cioè erano dappertutto. Anche la copertina meravigliosa del disco, certo, una cosa che poi simboleggia una nascita, se ci guardi bene, esatto. Quindi è una cosa... La nascita di un fenomeno, di una musica. Di una cosa, sì, di una cosa grande che ha segnato tutti, certo. In particolare la mia generazione. Sono quindi d'accordo. Nevermind, Nevermind di Nirvana, assolutamente là. Ok. Anche se poi devo dire che mi porterei anche gli altri di Nirvana, però facciamo una scelta. Esattamente. Poi mi porterei The Fragile dei Nine Inch Nails, che è il doppio disco. È il vostro musicista preferito, i Nine Inch Nails, il leader. Trent Reznor è un genio. Per gusto musicale. È un genio perché fa un po' di tutto. Per soluzioni, è un pianista, un chitarrista, sì. Eccezionale. Poi io sinceramente li ho visti dal vivo in più di un'occasione. Che impressione ti hanno dato? Mai delusi. E una cosa fondamentale, io ho visto parecchie band, ho visto molti concerti, e mi è capitato di vedere un gruppo in più occasioni. Certo. E di solito solito mi è piaciuto molto la prima volta, un po' meno, la seconda e via così. Con i Nine Inch Nails è stato al contrario. Sempre incredibile, in miglioramento. Tre volte e ti devo dire che ogni volta è stato più bello. Sempre in miglioramento. Quindi guarda, anche i Nine Inch Nails con The Fragile ce li metto. Perfetto. Poi metto Jeff Buckley. Adesso ci fermiamo un secondo, perché Jeff Buckley è un musicista straordinario. Moltissime band hanno detto Jeff Buckley ha fatto un solo disco, ma è un disco che rimane. È una cosa eccezionale. Al di là delle antologie, al di là dei no, dischi. Poi vabbè, quando è morto l'hanno scarnificato, hanno fatto le cose, secondo me, non propriamente belle. Però certo. Grace rimane un disco epocale. Grace è fantastico. Cioè, il fatto di avere un ragazzo che canta in falsetto e ha lo stesso una virilità devastante, una forza nella voce, ti dico, per me è un punto di partenza. Cioè dobbiamo ricordare che era figlio di un tal padre che si chiama Tim Buckley. Tim Buckley è un musicista straordinario. Anche lui è morto circostanze di overdose. Lui okay. Invece Jeff si è buttato nel Mississippi. È annegato nel Mississippi. Anche questa fine. È una fine. Qualcuno dirà una fine romantica, sì, ma è un romanticismo. È strano. Però il romanticismo traspare in quel disco. Io, se ci sono dei ragazzi in ascolto che non l'hanno mai sentito, io consiglio di ascoltare vivamente Grace di Jeff Buckley. È un disco stupendo. Tra parentesi, è stato ristampato anche in linea economica, quindi si può trovare a prezzi. Si può trovare ovunque. Ovunque e a prezzi ridotti. Quindi Grace vale assolutamente la candela. Certo. Siamo arrivati al terzo, mi pare, sì. Ok, poi ci metto il primo disco dei Placebo. E come mai Placebo, una band che ha avuto molto successo in Inghilterra, anche in Italia soprattutto. Parlano un bel linguaggio rock. Sono un bel linguaggio rock, sì. Di pancia, molto. Sì. Diciamo, specialmente il primo disco che a me piace molto. Composizioni molto sentite, un cantato particolare. Quindi. Certo. E, come ultimo, cos'è che ci posso mettere? Ci possiamo mettere qualcosa di italiano, tipo Hai paura del buio Hai paura del buio degli After Hours. Grande gruppo. Disco, Agnelli è un grande musicista, un grande seguitore, non di mode, ha creato un genere italiano. Molto bello, molto efficace, un gran bel disco, l'ho comprato in cassetta, quindi quando è uscito all'epoca. E l'ho rovinato, me lo sono ricomprato in CD. Quindi questi qua sono i miei 5 dischi. Perfetto, tocca a te, mio caro tastierista, dai. Ecco, senti. Ecco, Michele ha trovato gli After Hours. Grandissimo, veramente. Ma io non ho mai capito come fanno a trovarti subito. Vai là, gli chiedi. I DJ sono i DJ. La presenza musicale di Blu Radio Veneto. Prendi il nome. Lui, i DJ sono i DJ, il regista è il regista. Fiore di scuole qua. Vai, dai. Allora, il mio primo disco, il primo degli Audioslave. Degli Audio. Ah, ottimo, veramente ottimo. Diciamo qui non apprezza, no, però. No, anzi, Mimo, stavo ridendo con Mimo. Sì. Cioè, no, te lo giuro. Vabbè, a me il mix piaceva. Vabbè, gli Audio Slave è un bel gruppo, Un gruppo veramente interessante. Però secondo me è inferiore ai due gruppi. Sì. Sì, lo so. Sono d'accordo con te, però va bene, dai. Gli Audio Slave. Due. Poi gli Stained con 14 Shades of Grey. Ok. Molto bello. Un applauso da tutti i partecipanti, sentito. E poi ho scoperto un gruppo che. Sì, te l'hai già trovato, mezzo. No, però vai andiamo sul difficile, vediamo sul se difficile. Allora, gli Evermore con. Che probabilmente lo conosco solo io. Questo non ce l'hai, però... mica. Questo. Questo non ce l'hai. E poi. Lo sono andato a cercare perché il titolo è un po' lunghino e si chiama Truth of the World, Welcome to the Show. L'hai scritto, l'hai scritto sul cellulare. L'hai scritto per figlio. Perché. Ma che genere voleva? Rock elettronico. Rock elettronico, ecco, non li conosco. Sono inglesi o sono americani? Lo sai? Non lo so. Non li sono. Per me hanno l'accento inglese. Inglese, sardo. Quindi. Dopodiché. Eccolo qua, l'ha trovato. Nine Inch Nails con Year Zero. Quindi il vostro liaison arriva sempre, il vostro punto focale musicalmente parlando. Poi l'ultimo vado sul punk hardcore melodico. Good Riddance con Ballad from the Revolution. Ecco, perfetto. Punk melodico, tra virgolette. Vai, tocca a te adesso. Bene, ciao. Allora, io finisco con il primo album dei Deftones, Adrenaline. Anche questo le staffe. Sì, quindi praticamente una musica molto semplice, decisamente quasi melodica. Tra diciamo che un po' di melodia comunque sì, c'è abbastanza sempre, arrangiata sì. intelligentemente. Questo sì. Nonostante questi, direi Downset, il primo album dei sì. Downset. Buono quello là. Non mi ricordo neanche il titolo, comunque ma... l'ho cotto sì. forza di ascoltarlo. Di ascoltarlo. Poi metterai il primo dei Pearl Jam. Ah. Che nonostante ci sia qualche stonatura voluta, ma è incredibilmente caldo e degno di grandissimi, grandissimi per esempio, visto che, mondiale. Visto che ci siamo, l'ultimo disco l'avete ascoltato? No, solo il singolo. È solo il singolo, è un bel album. È un bel album. E per esempio, l'ho detto spesso, e tutte le band che sono venute qua sono state d'accordo nella mia interpretazione, cambiano sempre. Restando sempre comunque riconoscibili. Esatto, restando sempre riconoscibili, ma cambiano sempre. Sì, sempre comunque il suo timbro. Diciamo un po' come fanno i Metallica, che cambiano comunque genere, ma comunque... Il Pergiano, Eddie Vedder, che è un grandissimo musicista, poi ha fatto quella colonna sonora bellissima di quel film. Quello là che cerca, sta cercando. Sta cercando il Pergiano, ma li trova sì il Pergiano. Secondo me hanno avuto una flessione. Li ha trovati. Vedi, li ha trovati. Erano già quindi siamo noi che non ci siamo accorti. C'era già sotto. Credo DJ che abbiano... chiaroveggente. Ma è un DJ, lui è il regista basilar di Rockway. Non c'è niente da fare. Rockway. Vai allora. Poi sono arrivato al terzo, mi sembra, giusto? Sì, il terzo sei arrivato. Poi metterei una band abbastanza sconosciuta che sono i Will Even. Quelli non li conosco. Sono abbastanza, diciamo, sconosciuti, però hanno fatto da spalla i Deftones parecchie volte. Quindi qualcosina... sono un tifo, diciamo, abbastanza certo. sgretolante, come certo. riprendo il termine del nostro bassista. E poi io metterei una band italiana che non so perché mi piace, ma comunque mi stimola costantemente emozioni, che è Elisa. Non so se posso vergognarmi o no, perché comunque Elisa l'apprezzo tantissimo. Perché devi... io ho sentito il singolo specialmente... nuovo. No, il singolo nuovo non l'ho neanche è molto bello secondo me. Non so però... se Michele riesce a... singolo nuovo di Elisa riesce a recepirlo. Un momento, intanto insomma, parliamo un po' di Elisa. Come mai Elisa? Ma perché ero comunque a un concerto a Bologna, come si chiama quello di Bologna? L'Estrago. Comunque sì. Il Summer Fest, sì. Quello che è. L'ho sentita suonare dal vivo e mi ha fatto venire la pelle d'oca. Brava. È una potenza molto molto... Una ragazza di Pordenone scoperta da Caterina Caselli. Da Pordenone, non è Pordenone, era da... di Pordenone mi sembra. No, non è di Pordenone. È di Monfalcone. Monfalcone. Alberto Pisco e Michele Tosomano hanno subito corretto. Lei è di Monfalcone. Bravissima, bravissima. Sì, complimenti a lei e a tutto il suo staff. Grazie. Esattamente. Se posso portare con me un sesto CD... Dai. Speravo che... lo dicesse qualcuno di loro, un cito Parsanelli, why everybody sucks degli Osservi. Con questo quindi mi fondiamo giusto, abbiamo concluso allora i nostri 5 dischi da portare su un'isola deserta. Adesso portiamo agli ascoltatori un pezzo live, siete d'accordo? Ok, cosa sentiamo adesso? Cosa avete deciso di far sentire? Andiamo ad esibirci, mi tolgo le cuffie, andiamo ad esibire la canzone che hanno già sentito gli ascoltatori, che in circa mezz'ora fa, si chiama Sparrow. Perfetto. In arrangiamento acustico. De chiaramente. Blu Radio Veneto Rock. Put my skin, electric flavors on your tongue, 'cause I don't know that scene, you know that scene, you know that. Deep inside, I am complete and feel so faint. And I don't need that scene, you need that scene, you need that. I don't believe I've lost my. I won't let you, I won't let you. Thank you. beneath my brain, beneath my suffering there is so much rain, beneath my skin, beneath my brain, beneath my suffering there is so much rain. Ok, benissimo. Abbiamo sentito allora questa versione live di un pezzo che avevamo ascoltato prima dal disco. Versione live, come sempre, una versione diversa. Perché il live, specialmente il live acustico di una band che fa musica, non dico fortissima, ma abbastanza potente, è tutta un'altra cosa. È una creazione di un mondo diverso, secondo me. È molto positivo, a mio parere. Non so se siete d'accordo. Ma è molto stimolante anche, perché comunque noi che siamo abituati a fare sempre musica elettrica. È stato bello soprattutto fare le prove a casa, nel nostro turbido garage. Adesso diciamo ai nostri ascoltatori, diretta rockway.altervista.org per sentire e vedere chiaramente stasera le prove per un concerto acustico qui alla radio. Com'è andata? Come sono andate? È stato bello, è stata una serata... Non abbiamo avuto molto tempo per provare, perché abitiamo più o meno tutti distanti, a parte noi tre, loro abitano 100-120 km da noi, quindi no, ci siamo trovati a casa mia, forse era anche il mio compleanno, ho preso due ceste di ghiaccio, le ho riempite di birra, e via, una pizza, e abbiamo fatto una bella serata. Anche candele. E le candele, è vero. È vero, è vero. Me l'ero dimenticato, ma mezzo che è un romanticone, gli sono rimaste impresse. Vedevo che mi guardava languido finché faceva le prove. Quindi avete provato per questo live? Abbiamo provato, sì, ed è stato bello, perché comunque vai dentro l'essenza della canzone, togliendo tutti gli orpelli, tutte le cose, resta proprio pelle e ossa la canzone, ed è bello, perché comunque senti che è una cosa tua, la senti più vicina per certi versi. E abbiamo detto, cioè, mi pare che qualche volta dal vivo riuscite a fare anche degli acustici, vero? Facciamo un pezzo acustico. Ma questa dimensione del pezzo acustico si allargherà o rimarrà solo un pezzo acustico? Ah, guarda, come ti dicevo prima, adesso noi per questa evenienza qui abbiamo imparato a suonare anche un po' più tranquilli, quindi non è escluso che magari non solo in radio, ma magari anche qualche concerto in posti dove magari non puoi fare molto rumore, magari qualche jazz club o qualcosa, se ci chiederà, per noi sarà un onore andare a portare il nostro repertorio acustico. È un'altra cosa da chiedere è questa: ho chiesto ad altre band, ma la chiedo anche a voi. La scaletta dei pezzi come è stata fatta? È stata messa così per caso o è stata fatta volutamente in questa maniera? La scaletta sul disco? Sì, sul disco, sempre sul disco. No, è stata... Dario, ti ricordi? È stata voluta? Secondo me, da quello che mi ricordo, è stata voluta. Nel senso, abbiamo alternato pezzi che magari incalzavano più rispetto di altri, per magari dare pause con altri brani che erano ad esempio leggermente più soft. Ecco, è una cosa che volevo dire. Ci abbiamo lavorato abbastanza su, nel senso, psicologicamente. Ma il produttore ha detto qualcosa o ha lasciato mano libera per mettere i pezzi? Ma per quanto riguarda il produttore, per fortuna ci ha lasciato abbastanza spazio, nel senso, non ci ha detto ovviamente fate il cazzo che volete, e non ci ha neanche detto Sì, fate quello che volete. Fate quello che volete. Sì, la tagliamo volete, questa. Tagliamo. Ovviamente è stato un... Devo chiedere cortesemente scusa. Ecco. Purtroppo ho questo difetto professionale dell'ignoranza. Perfetto, allora andiamo avanti. Allora il produttore ti ha detto, non ti ha detto niente. Mi ha detto, fate i cavoli che volete. Esattamente. Comunque, praticamente ci ha dato il via libera, ecco dai. Così abbiamo deciso comunque come il da farsi, farla scorrere, esatto. Questa scaletta. Esattamente. Un'altra cosa, quindi il produttore vi ha dato via libera. I pezzi dall'album sono quelli che avete già. Ci sono dei pezzi ancora nascosti nel cassetto oppure no? Ah, guarda, questa è una bella domanda. Allora, calcolo che da quando sono entrati i due ragazzi, mi spiace tirarli sempre in ballo. Beh, giusto, diciamo che in ballo, circa un anno, otto mesi che sono dentro, abbiamo iniziato a scrivere pezzi nuovi. Siamo già forse a 5-6 pezzi già quasi finiti nuovi, quindi ti dico, scalpitiamo adesso. Lavoreremo su questi qui perché questi sono, però non è escluso che nella scaletta dei prossimi concerti inizieremo a infilarci uno o due pezzi nuovi, perché comunque siamo molto molto entusiasti, molto molto contenti. Quindi, come tu ben sai, magari un pezzo nuovo ti prende anche un pochettino di più, perché questi qua li abbiamo suonati più e più volte, e quindi vedremo di affiancare al vecchio repertorio i nuovi cavalli di battaglia, ecco, importante, che pian piano stanno nascendo bene. Quindi il nuovo repertorio è qualcosa di sì, affiancare i vecchi e i nuovi. E a proposito, un'altra cosa che volevo chiedere è questa: è una specie di greatest hits questo disco qua oppure no? Ma no, diciamo che è... Allora, ci sono stati dei pezzi che sono stati esclusi alla fine, ma non erano tantissimi, quindi diciamo che erano i pezzi che rappresentavano meglio quello che eravamo noi quando l'abbiamo registrato, quindi fra il 2006 e il 2007. Certo. Quindi non è stata fatta una grossa cernita. Siamo andati in studio con le idee più o meno chiare e alla fine, grazie a Paso, il produttore, abbiamo sgrassato, diciamo, abbiamo tolto le parti che erano più prolisse, che comunque non giravano, e ci è rimasto in mano questo, che credo che per 8 decimi sia un disco più che buono. E altre due canzoni più o meno sono riempitivi, però insomma è brutto da dire, però ti dico, ecco, secondo me abbiamo 8 prime scelte nel qualche disco. Qualche maligno ha scritto che riempitivo è il pezzo di Rock Set, come mai? Ah. No, beh, maligno no, perché... Maligno nel senso, qualcuno ha detto non c'entrava niente. Allora, questo è un discorso a parte. Allora, poi è logico che la gente è libera di credere. Che traccia di credere, è il pezzo di Rock Set, ti ricordi? Sì, The Look. Allora, ti spiego. No, che traccia è dal disco? Ah, è al numero 10, ecco. Ma l'andiamo... Dopo la sentiamo, allora. Certo. Voglio sapere il perché avete... Il Rock Set, che è una band sicuramente pregevole dal punto di vista del loro genere, chiaramente. Certo. Beh, ci sono state mosse tante critiche, molte in maniera costruttiva, difatti anche sulle recensioni abbiamo apprezzato chi ha messo in discussione la nostra, però io ti posso parlare a livello personale perché è una scelta mia, quella proprio personale, di inserire d'accordo gli altri. Certo, gli altri poi sono d'accordo, sono stati d'accordo, certo, nella cover di Rock Set. Sì, no, diciamo che la scelta è caduta su di me perché i Rock Set sono stati semplicemente il primo gruppo rock che io ho ascoltato in vita mia. Perfetto. Quindi correva l'anno 1986, avevo 11 anni, ed è stato il brano che mi ha portato ad ascoltare il rock. Cioè, allora si sentiva Tina Turner, si sentiva Ramazzotti, si sentiva Bennato, ho sentito i Rock Set e 20 anni dopo ho voluto porgere il mio omaggio ai Rock Set, a questa band degli anni 80. Questa band che ha avuto grandissimo successo, meritato band. Perché meritato, sono un gruppo micidiale. Certamente, comunque, dal vivo sicuramente sanno cosa... sa suonare la gente, però chiaramente Rock Set, ripeto, no, forse ho sbagliato il termine maligno, qualcuno ha scritto forse c'entravano poco, ma adesso tu mi hai spiegato il perché di questa scelta. Sì, no, ma è proprio, poi è logico che si è liberi di credere o no, però è stata una scelta onesta anche questa qua. Non abbiamo deciso a tavolino facciamo la cover per diventare famosi, no, perché adesso sembra, sembra la scappatoia. Sì, esatto. Abbiamo scritto 10 canzoni e la cover l'abbiamo voluta inserire proprio per un tributo. Certo, certo. Perché per me è stato importante, mi ha aperto al rock e quindi... Ok, allora sentiamo la traccia numero 10 dal loro album. questo omaggio ai Rock Set, una band, non dico seminale, non posso dirlo, ma una band che ha fatto un poco di storia, anche dal punto di vista economico. Ha fatto la sua parte. Ha fatto la sua parte anche dal punto di vista delle classifiche, ok? Blu Radio Veneto Rock. We'll be right back. got another when she's spinning me around. Kissing is a color, as loving as a wild dog. She's got the look. She's got the look. The look. Fire in the eyes, naked to the demon is a lover disguise. Banging on the head, pump, shaking like a mad bull. She's got the look. Oh, swaying to the band, moving like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's a juvenile scam. Never was a quitter. Tasty like a raindrop. She's got the look. SMS 346 2320 033. Rockwave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito la l'interpretazione di Ocean Drive, di un pezzo famosissimo dei Rock Set. C'è qualcosa dietro a questo pezzo? Un video, mi pare. Sì, sì. Come ti dicevo poi quando stava girando, sì, il pezzo. Noi veniamo giusto appunto dalla realizzazione di questo video. Dove avete girato questo video? Dunque, abbiamo suonato la settimana scorsa, abbiamo suonato a Lonky Tonky di Seregno a Milano. Il giorno dopo siamo andati a Pavia a casa di Carlo Caresana, che è un ragazzo che fa motocross acrobatico, è nel team Dabut, nel team acrobatico della Fiat, e abbiamo fatto le riprese per questo video proprio di The Look con la regia di Salvatore Perrone, che è un ragazzo di Tavuglia, un bravissimo regista, amico di Valentino, probabilmente di Tavuglia. Sì, conosce Valentino Rossi perché è dello stesso paese. Esatto. O paesotto, sì, insomma. Chiaramente. E abbiamo girato questo video in uno, diciamo, in una rampa da motocross con le moto che facevano i loro salti mortali e le loro evoluzioni. È stata un'esperienza veramente molto bella. ho sbirciato qualcosa del girato, secondo me è un video molto molto bello. Speriamo che... Ma è già in rotazione questo? No, adesso sta girando Codeine e Champagne, che è il pezzo, sì, che abbiamo ascoltato, certo, prima, e che abbiamo proposto anche in Unplugged. Questo, il pezzo The Look, il singolo The Look, credo che lo faremo uscire sotto Natale. Oh, sento in sottofondo... È Michele, bravo, lui l'ha pescato. L'originale, cioè, l'originale. Lasciamo volutamente nel sottofondo. Certo, certo. E ne parliamo ancora. E quindi noi puntiamo a dicembre a far uscire questo video qua, insomma. Avete una prospettiva anche... Non so, posso la sparo grossa, di andare oltre l'Italia, cioè, non so, Germania, Olanda, quei paesi là, visto che tu avevi quella prospettiva un tempo. Guarda, stiamo lavorando anche in questo senso, perché comunque ci sono bacini d'utenza in Germania, in soprattutto Inghilterra, in Germania, sì. Sì, in Germania e in Inghilterra, e anche nell'Europa dell'Est, che in Italia è difficile trovare. però logisticamente è un incubo perché dobbiamo organizzare un pochettino tutto. Noi stiamo cercando, abbiamo spedito tutto il materiale, certo, a chi, certo, di dovere, nell'ufficio stampa sta lavorando, abbiamo un manager che copre l'est Europa, un management che copre l'est Europa, abbiamo iniziato, quindi, a lavorare da poco, quindi avete un'etichetta e mi dà una mano, certo, noi stiamo cercando di espanderci anche là, perché come ti dicevo il bacino d'utenza ci fa gola, quello, certo, delle... Una cosa volevo chiedervi, chi ha suonato oltre a voi nel disco? C'è qualcun altro vi ha dato una mano? L'ex batterista. Lo citiamo, dai, lo citiamo. Certo, Simone Fonzi Bonafè, che è stato il batterista storico assieme a mio fratello, che era ancora il primo batterista degli H-Strychnine. Gli abbiamo chiesto un favore, ha suonato in maniera eccellente, perché non c'è niente da dire. Ringraziamo anche Andrea Pulga, che ha suonato il basso, e anche Neuronic DJ, che ha dato una mano a mezzo per i sampler. Quindi praticamente c'è stata una collaborazione con questi ragazzi. Certo, come, esatto, come ti dicevo, la band era sciolta in quel periodo lì, abbiamo chiamato rinforzi e tutti sono stati gentilissimi e ci hanno dato una grossa mano. Quindi, e devo, dimmi. Scusatemi, giustamente mi dicono che devo ringraziare anche Titta dei Mellotoi, che ha suonato la chitarra in The Look. Benissimo. L'ultimo, è una cosa da ribadire, il produttore ha cercato di praticamente di tirare le fila di tutto. Sì, noi siamo arrivati con la nostra... Avete già, il materiale era già pronto. Sì, era già pronto, però diciamo... Economicamente bisognava fare in fretta perché lo studio costa. Chiaro. No? Abbiamo fatto in fretta il più possibile, però cercando sempre di... Allora, dato che si va in studio... Una fretta ragionata, certo, però. Certo, di non buttare via, certo, dei soldi. Siamo andati in studio, ci siamo presi il nostro tempo. La cosa bella è che i musicisti che hanno suonato erano molto bravi, quindi non abbiamo perso particolarmente tempo a registrare le musiche. Poi ci siamo concentrati di più sulle voci, e perché insomma io e Dario non eravamo cantanti, lo siamo diventati per l'occasione, e quindi ci è voluto un pochettino più di tempo, ma grazie a Paso, che è un vocal coach da panico, siamo riusciti a fare non addetti ai lavori. Vocal coach è una persona che ti aiuta a trovare le armonizzazioni, ti aiuta a trovare il tuo timbro di voce, ti aiuta a cantare. Benissimo. Abbiamo capito che cos'è anche il vocal coach, è importante questo. E adesso il pezzo che avete scelto, che non fa parte dell'album, fa parte dei vostri preferiti. Sì, sì, sì. Che una band che ha amato anche Michele, sì, adesso Michele lo sta sistemando. Come mai questa scelta di Oberstank? Gli Oberstank sono un'altra band, diciamo, enciclopedica. Sì. Riesce a sposare in maniera molto efficace la violenza con la melodia. Quindi ti dico, dato che comunque ci hai detto di prendere band che ci hanno dato spunto, noi ci è venuto spontaneo, perché comunque anche questi ragazzi sono veramente molto molto bravi, anche se dal vivo non sono bravi, zoppicano, come in studio. Zoppicano, come mai, però in studio te? Fanno, non lo so, forse perché hanno delle canzoni molto difficili, sia da cantare, cioè tutto incastratissimo, voci alte e intonate, armonizzate, quindi dal vivo. E a proposito di questo, l'altro giorno abbiamo celebrato i 40 anni di The Kurt Hawkinson Cream, che penso sia un album epocale. Ok. Sono 5 pezzi scritti da Robert Fripp, da Ian McDonough e da Greg Lake. Adrian Belew, no? No, c'era dopo. Prima formazione di King Crimson. Ah, è venuto dopo, molto dopo. È arrivato dopo Adrian. E diceva Robert Fripp in un'intervista che i 5 pezzi loro ne eseguivano solo 3. Perché erano talmente difficili da fare gli altri due dal vivo, era impossibile. Dai King Crimson, tra l'altro, pensati che livello. Che livello epocale. Certo. Robert Fripp è un geniaccio, è sempre stato un geniaccio. Non avevano difficoltà a eseguire gli ultimi due dei 5, solo 3. Perché gli altri due erano impossibili da eseguire dal vivo. Parla del 1969, e quindi non c'erano tanti marchingegni elettronici. C'era il Bellatron e basta. E c'era Robert Fripp e la chitarra magica sua, la voce magica di Greg Lake. Però avevano difficoltà, quindi. Mi ricordavo la vostra difficoltà. Certo, no, dal vivo è una... Infatti i gruppi che fanno cose fortissime su disco bisogna andarli a vedere con riserva. Se poi le fanno uguali bisogna inchinarsi. Esattamente. Come il caso dei Nine Inch Nails. Quelli sono una cosa a parte, secondo me. Sentiamo gli Oberstank, allora. Blu Radio Veneto Rock. My every thing for just a second. Abbiamo sentito un gruppo che ha fatto molto successo anche in Italia, decisamente. Dopo un successo, però, perché il successo è diminuito? Perché il disco dopo del grande successo era un po' diverso. Beh, avevano altre sonorità. Nel disco che hanno fatto il botto avevano The Reason, che sì, era quella ballatona che ha venduto 300 milioni di dischi. Un sacco di copie. Poi non era brutto in realtà il disco successivo, però aveva il demerito di arrivare dopo quella pacca devastante. Esattamente, quindi non forse... è che li abbiano dimenticati, però non c'è stata la pacca devastante. Non sono riusciti a abissare l'Exploit. E non è mica semplice però, abissargli no, assolutamente, non è neanche facile farlo, immaginati doppiarlo. Doppiarlo è molto molto difficile, ma forse fin di conti è stato meglio così, perché dopo potevano ripetersi. Sì. La ripetizione non è mai bella come l'originalità, secondo me. Esatto, adesso vedremo le prossime mosse di questa band, li aspettiamo al varco. Li hai visti dal vivo? Io in realtà non li ho visti dal vivo, li ho visti in televisione dal vivo. Mm. Ed è stato quasi imbarazzante, perché hanno proposto Reason, The Reason, che è quella che sentiamo sì. sottofondo, però il cantante proprio e non c'era, non ne ha presa una, serataccia. È ben difficile, sai, non è mica poi semplice. È difficile da cantare, perché comunque ha delle armoniche alte. È difficile da cantare, poi non è mica semplice, bisogna essere nella serata giusta. Eh beh sì, per il cantante è abbastanza importante avere la serata giusta, perché se capita che sei in serata sbagliata è brutto, perché la chitarra la puoi suonare, però la voce devi averla, se non ce l'hai è un problema. Esattamente. È un problema. Ma stasera ne hai meno di voce, però tu c'hai la voce, chiaramente. Io ho sentito nel disco, decisamente, ripeto, il discorso vostro è giusto, l'aggressività da una parte e la melodia dall'altra. Sì, sì, ma la voce... A parte che mi ha dato una grossissima mano anche Dario e anche Mezzo, sia sul disco che assolutamente poi dal vivo, perché comunque dal vivo, si ripresenta l'incubo degli Ubastank, cioè noi sul disco abbiamo degli incroci vocali che sul disco suonano da paura, però poi dal vivo non è sempre soprattutto se sbagli quelle cose lì, poi la canzone scema, perché comunque le vocalità sono in primo piano, perché sono proprio armonizzate. Quindi con Mezzo, con Dario, anche con Tomo ultimamente, anche Mimmo, ecco, che comunque Mimmo ci è dà molto una rilassato mano che... adesso sta pensando stare rilassato. Quanti arnesi si porta oltre a quei pochi che abbiamo stasera, che le telecamere inquadrano? È uno dei pochi batteristi che si porta tanta roba, ma la suona tutta, perché ci sono tanti batteristi che si portano tanta roba e la lasciano là e non la cioè suonano. Però vorrei chiedere a Mimmo se ha voglia di parlare un po' un attimino del suo set di batteria. Il set di batteria, Mimmo, dai. Così racconta un po', i nostri ascoltatori possono capire cosa vuol dire suonare la batteria con tutti i mezzi a disposizione. Allora, quando suonavo metal, più roba avevo, montata nel set, e meglio andavo, perché comunque molti passaggi, durata di esecuzione, tempo esatto, di uno stesso ritmo era proprio breve, allora 2-3 minuti, non esatto. Di più. Poi sono arrivato a suonare con loro, ovviamente cambiando genere. Ho voluto provare ad allargare i tempi? No, li hai allargati i tempi? A restringermi col set. Ah, ho capito. Cioè, ad usare semplicemente gran cassa, rullo, un timpano e un tom, parlando di fusti. Poi siamo in gergo, quindi gran cassa, praticamente sugli strumenti, sono i rumori, i suoni, le dimensioni. Ecco. Parlo di fusti. I fusti, chiaramente quelli. I gran cassa, soprattutto. Esatto. Abbiamo girato il primo video di Codini Champagne, ed ero proprio vuoto davanti, cioè sì. Cassa e due timpani, uno a destra e a sinistra, proprio. Perfetto. Alla Blink 182, sì. Esatto. Blink 182, esatto. Quello che mi ha stupito comunque di Mimmo, adesso parte i discorsi tecnici, è il gusto che aveva. Cioè, quando abbiamo fatto la prima suonata insieme, proprio mi ricordo che è arrivato, dovevamo andare a fare un aperitivo insieme, è arrivato in camicia, tutto precisino, però appena si è seduto dietro la batteria se n'è fregato, ha sudato come un batterista giusto, come un batterista vero. E poi sono andato a bere lo spritz. Poi siamo andati a berci lo spritz, ma quello questo, dovevi ricaricarti chiaramente. Mi ha colpito l'entusiasmo e anche il gusto che ha, perché di solito i batteristi metal, se gli cavi il doppio, se gli togli il doppio pedale si spengono. Invece Mimmo ha, anche sulle composizioni nuove, addirittura si parla di una ballad. Abbiamo una canzone che è morbida. Ok, una bella ballad. Ha veramente un tocco che è difficile riscontrarlo in batteristi metal. È più giovane di tutti qua, mi pare lui. Credo che con Tom se la giochi. Te la giochi. Sono coetanei con Tom, un 87. È un 87, siete giovani. Rispetto a me, siete molto giovani. Ok, 23:45, sentiamo la penultima traccia dell'album. Scelta chiaramente la traccia numero 6, ti ricordi il titolo? Sì, si intitola, la canzone che andiamo a ascoltare si intitola Geisha Stone. Perfetto. Blu Radio Veneto Rock. Just that you Rockwave, l'onda del rock. Diretta rockwave.altervista.org per sentirci e vederci stasera con gli Ocean Drive. Sono di Rovigo. Org. Diretta rockwave.altervista.org, quindi ci potete sentire e vedere. Ok, salutiamo anche Vanuccio che ci sta ascoltando. E gli Ocean Drive, siamo quasi alla fine di questa cavalcata, una bella cavalcata fra la vostra musica, la musica sia dal disco sia la musica live. Ricordiamo le cose fondamentali. Il titolo dell'album. Allora, il titolo dell'album è Why Everybody Sucks. L'etichetta. Posso fare una. Sì, posso aprire una piccola parentesi. Certo. Why Everybody Sucks significa perché tutti fanno schifo. Però non è. Non vuole essere né polemico, no, né cose. Assolutamente no. Siamo già stati attaccati su un blog che ci hanno un po' accusato di essere un pochetto così. Sovversivi si può dire, sì. In realtà poi è rivolto al fatto che abbiamo fatto molta fatica ad arrivare al punto in cui siamo adesso e quindi è più uno sfogo che in realtà un dato di fatto, volevo calmierare le polemiche se per caso ci sono. Quindi Why Everybody Sucks è uscito l'11 settembre del 2009 per la Bagana Records e distribuito Edel, quindi si trova in tutti, si trova in tutti dischi. I negozi, se fate fatica a trovarlo lo possiamo richiedere, come lo potete richiedere a noi, quindi collegandovi sul nostro MySpace, che è www.myspace.com/ossendrive2009. trovate brani in ascolto, trovate il nostro video di Codeine Champagne che è stato caricato da pochi giorni, trovate un mucchio di cosettine simpatiche, potete scriverci, potete contattarci e potete anche richiederci il disco. E un'altra cosa, i concerti, ripeto, noi adesso la prima data che abbiamo schedulata è il 21 di novembre al Circolone di Legnano, in provincia di Milano. Di Milano, E poi il 19 di dicembre a Legnago, in provincia di Verona, suoniamo allo skate park di Legnago, in provincia di Verona, e mi è stato detto, esatto, il 26 di dicembre, che quindi è stata appena confermata. Quindi Santo Stefano. Esatto, il giorno di Santo Stefano, ci è proprio appena arrivato adesso l'email, suoneremo a Pesaro. Il locale non lo so, però ok, è un sarà sicuramente no, sarà sicuramente scritto sul nostro MySpace, sì, già da domani, quindi i ragazzi di Pesaro basta che vadano a vedere un attimo della zona, basta che vadano a vedere, poi se ci vengono a trovare, a vedere, a saltare con noi ci fa molto piacere. Benissimo, basta cliccare nel vostro sito, basta cliccare, si trovano tante cose carine, abbiamo una ragazza che ce lo segue, quindi fa delle cose abbastanza carine, ci sono molte foto, ci sono foto in bianco e nero, foto a colori, foto dei concerti, ci sono svariate cose. È proprio la copertina assolutamente nera. Sì, l'abbiamo voluta fare nera per il mood che si era venuto a creare, sempre per il fatto, sì, di Why Everybody Sucks. Certo. Usciamo da un periodo nero, quindi il prossimo disco probabilmente sarà avrà solare, i colori dell'arcobaleno. Esatto. Sentiamo allora l'ultima traccia del disco, e la traccia numero 8 mi pare, giusto? Sì, la traccia numero 8 che si intitola Gash. La spieghiamo dopo, ok? Certo. Blu Radio Veneto Rock. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo finito la nostra cavalcata verso la mezzanotte. Ecco, è proprio una cavalcata. La cavalcata. Verso la mezzanotte è quasi terminata. 23:56. Io sono stato molto contento di aver sentito musica da violenta e allo stesso tempo melodica. Non è semplice trovare questo connubio, secondo me. Un connubio positivo. Certo. Siete d'accordo? A noi ha fatto molto piacere essere qua in vostra compagnia. Quando volete rinvitarci, noi siamo disponibilissimi. Ben volentieri. Diamo un saluto anche a chi ci ha ascoltato. Certamente, ricordiamo l'album, come il titolo dell'album. Il titolo dell'album Why Everybody Sucks, lo potete trovare ovunque. Se avete qualche problema, il nostro MySpace, www.myspace.com/oceandrive2009. Benissimo, prima di concludere do l'appuntamento alla prossima settimana. Mercoledì prossimo avremo un gruppo di del Lido di Venezia, proporranno musica elettronica, una tastiera. In unplugged, sempre molto in unplugged. E cosa ci proponete per salutare i nostri ascoltatori? Il brano, Dario, vai. Il brano si chiama XXX. Sempre assolutamente in versione acustica, tre chitarre e una batteria. Mimmo è scatenato al momento giusto. È pronto per terminare la mezzanotte. Grazie a Michele Tosò in regia, grazie a Roberto Baldi che ha sistemato le telecamere come sempre, fatto come sempre benissimo. E va bene, adesso voi. Terminiamo. Grazie. Buonanotte a tutti e buonanotte. Grazie. Buonanotte. Blu Radio Veneto Rock. Rock.